Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In sommario oggi l'aumento delle rapine, dei furti e danni dei mezzi pesanti con l'istituzione di un osservatorio per prevenire e contrastare questi fenomeni criminali. Poi parleremo delle nuove norme sulla pesatura dei container prima dell'imbarco, norme contenute nella circolare emessa dal comando della Guardia Costiera e quindi spazio ad una fotografia statistica di come gli anni bui della crisi hanno picchiato duro sul mondo dell'autotrasporto. In primo piano quindi le rapine e i furti ai danni dei TIR. Non ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza, ma i casi sono in aumento e quindi cresce la preoccupazione da parte degli autotrasportatori. Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo che ha dato il via ad un osservatorio istituito con lo scopo di calibrare le strategie di prevenzione e rendere così più efficace l'azione di contrasto. All'osservatorio partecipano tutte le forze di polizia, ANAS, AISCAT, ANIA e l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Per inquadrare a partire dai dati l'incidenza di furti e rapine e i danni dei mezzi pesanti, abbiamo intervistato Giuseppina Minucci, primo dirigente responsabile della terza divisione del servizio centrale della Polizia Stradale. Per quanto riguarda il 2015 registriamo una costante crescita del dato rispetto all'anno precedente, nel senso che se nel 2014 abbiamo avuto tra furti e rapine 2071 circa episodi delittuosi, nel 2015 ne registriamo 2275. Rapine e furti, come abbiamo sentito, sono aumentati di circa il 10%, ma quali sono i tratti autostradali considerati sotto questo profilo più a rischio? La Puglia praticamente è la regione che detiene primato per quanto riguarda questi episodi. In particolare registriamo 12 rapine e 37 furti. Segue il Piemonte con 3 rapine e 38 furti. L'Emilia-Romagna, dove registriamo 22 furti, non abbiamo la presenza di rapine ma registriamo 22 furti, e la Lombardia che registra una rapina e 48 furti. E quindi praticamente riteniamo che le arterie, noi riteniamo, ci sono dati statistici che effettivamente ci confortano che le arterie autostradali più interessate sono la 14 e la 1. Gli orari che vengono praticamente presi di mira dalle organizzazioni criminali sono l'arco orario che va dalle 24 alle 4 di notte, quindi nel pieno della sosta notturna. In azione vere e proprie gang, in molti casi i colpi vengono pianificati. Ascoltiamo ancora il primo dirigente della Polizia Stradale, Giuseppina Minucci. Possiamo dire che due sono le categorie che solitamente effettuano questo tipo di reato, o bande pugliesi, in prevalenza pugliese, nelle province di Andria, Bitondo, Cerignola, oppure campani. Complessivamente dal 2015 a marzo 2016 abbiamo deferito all'autorità giudiziaria 145 persone, 63 in stato di arresto, e per 46 di esse si è proceduta in flagranza di reato. Come dicevamo, del nascente osservatorio sui furti e le rapine fa parte anche l'Albo degli Autotrasportatori. Al nostro microfono il vicepresidente Silvio Faggi. Credo sia, come dire, una risposta importante ad un fenomeno che sta purtroppo continuando a preoccupare le imprese di autotrasporto, soprattutto in alcune regioni, in alcune realtà del nostro paese, che vedono appunto il fenomeno dei furti e delle rapine continua ad essere eccessivamente elevato. Sull'attività delle imprese di autotrasporto quanto e come incide il rischio di subire un assalto? Incide molto, ad esempio, nella organizzazione. È noto che l'autotrasportatore, il conducente di un veicolo commerciale, ha obblighi precisi da rispettare in termini di tempi di guida, tempi di riposo e quant'altro. Spesso ci si trova nella impossibilità a rispettare queste norme, perché quando scade, per esempio, il periodo di guida ammesso, magari ci si trova in una zona dove non è consigliabile fermarsi. Se ci si ferma e magari si viene rapinati del carico e del veicolo, l'assicurazione non risponde neanche, quindi sicuramente problematico. E veniamo ora ad una questione che da mesi è al centro dell'attenzione degli operatori della logistica. Riguarda le nuove norme relative alla pesatura dei container all'imbarco sulle navi nell'ambito della normativa SOLAS. Si tratta di norme dettate dalla necessità di aumentare i livelli di sicurezza delle navi alla luce anche di un aumento degli incidenti dovuti al sovraccarico. Per i container quindi non vale più il peso dichiarato, ma quello effettivamente accertato. Le nuove regole volute da IMO, International Maritime Organization, scatteranno il 1° luglio. Il timore degli operatori è che le nuove regole possano di fatto paralizzare le operazioni portuali e quindi, per un inevitabile effetto domino, rallentare pesantemente i tempi dell'intera catena logistica. Nei giorni scorsi il comandante generale delle Capitanerie di Porto, Vincenzo Melone, ha firmato il decreto che, oltre a stabilire i criteri di pesatura dei container, fissa un periodo transitorio di un anno durante il quale sono previsti margini di tolleranza più ampi. Per farci spiegare un po' meglio le modalità e i tempi di queste nuove regole, ci siamo rivolti all'ammiraglio Luigi Giardino, capo del 6° reparto sicurezza della navigazione della Guardia Costiera. Dal punto di vista dell'applicazione, l'Italia, così come altri paesi ovviamente con i quali siamo costantemente in contatto, hanno identificato quelli che sono gli strumenti, diciamo così, dal punto di vista dell'individuazione della normativa, e che sono poi le due direttive comunitarie che si applicano agli strumenti automatici e non automatici. Ovviamente direttiva comunitaria significa comunque una serie di prescrizioni tecniche che identificano una tolleranza di errore che si identifica poi alla fine in un quantitativo, diciamo così, dal punto di vista del peso, che si aggira sui 150-200 kg come errore strumentale previsto dalla direttiva. Parlando di container, si tratta evidentemente di margini estremamente ridotti. Da mesi le associazioni manifestano, come dicevamo, preoccupazione per gli effetti che l'applicazione di queste nuove norme possono indurre sull'attività in banchina, considerando che nei nostri scali approderanno navi sempre più grandi. Abbiamo preso in considerazione questa possibilità di un'applicazione, diciamo così, un po' più pragmatica nel periodo transitorio di un anno, quindi dal 1° luglio, che è l'entrata in vigore, al 30 giugno 2017, la possibilità di aumentare questo errore a 2,5 volte l'errore strumentale, che è quello, diciamo così, da direttiva comunitaria, con una variazione massima di peso non superiore ai 500 kg. A questo si aggiunge solo un ulteriore, diciamo così, possibile sforamento o comunque tolleranza, che però riguarda eventuali controlli successivi, cioè quindi pesate successive di controllo è comunque permessa una tolleranza del 3%, perché la merce trasportata può comunque in qualche modo subire delle modifiche dal punto di vista proprio della consistenza, sia per umidità, per una serie di trasformazioni, e quindi in questo caso abbiamo previsto il 3% sulla massa lorda verificata iniziale, che alla fine corrisponde intorno ai 1000 kg se pensiamo ad un contenitore da 40 piedi, diciamo sì, con il peso complessivo, con la portata di circa 40 tonnellate. Dai porti torniamo sulle strade. Negli anni bui della crisi l'autotrasporto è uno di quei settori che più hanno patito e ancora stentano ad uscire dal tunnel. A rendere il percorso più tortuoso contribuisce una serie di elementi come il cabotaggio abusivo, che inquinano il mercato e appannano i timidi segnali di ripresa. Ci sono vari studi che certificano il calo dei trasporti di merci su strada tra il 2008 e il 2014. L'ultimo è stato presentato da AIRP, l'Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, ed è stato elaborato su dati Eurostat. Questa ricerca ci dice che in Italia il calo dei trasporti è stato più marcato rispetto alla media europea. Sentiamo Renzo Servadei, segretario generale di AIRP. Dal 2008 fino alla fine 2010 sostanzialmente abbiamo avuto un calo che è stato abbastanza simile sia per quanto riguarda l'Italia che per quanto riguarda l'Europa. La cosa invece è veramente inquietante è che dal 2011 l'Europa è rimasta sostanzialmente stabile, invece abbiamo avuto un ulteriore tracollo per quanto riguarda il trasporto merci in Italia, si parla di 27,7 punti percentuali rispetto al 2010, che è una cifra veramente, veramente importante. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.